tua contrada rivolgici. Oh sì, per queste lacrime ho l'entità ti rigo le ginocchia che abbraccio e bagno questa destra con l'alma sulle labbra in questo bacio. Con questo vile pianto incauta mal pretendi tentarmi di pietà. Se più m'offendi, fermo il voler di irrevocabil sorte, che di nomio tu sia, ehi tella morte. Padre crudel, spietato, e le mio si morrà, ma ogni tempo è stesso piangere non è più, non cedere mi vedrai. Così doppio trionfo si grande rigore,